Allora, sono le 19:11 minuti di venerdì 10 maggio 2024. Sono di ritorno da una lezione del corso che coordino per il Cinecittà Luce Lab. Ed è un corso, forse l'ho già detto da qualche parte, di Digital Humanities per la comunicazione in rete. Oggi abbiamo avuto un ospite molto speciale, l'avvocato Simone Aliprandi, che è davvero un raro caso di persona che si rende conto per davvero di quello che sta succedendo nel mondo, anche fuori dagli uffici anche fuori dai luoghi di potere, in relazione appunto al tema della sua lezione, che è quello del diritto d'autore attraverso la transizione digitale. Simone è non soltanto, insomma, possiamo dire, un esperto di livello più che accademico su tutti questi temi, ma è anche una persona che si rende conto di quello che accade nel mondo ed è anche un attivista. Io l'ho definito anche un militante, forse esagerando, ma sicuramente avendo fondato una delle principali associazioni di copyleft in Italia, forse la principale, e avendo scritto innumerevoli tesi sul tema, è una di quelle persone assolutamente da seguire su tutto quello che accade all'ecosistema dei contenuti. E oggi abbiamo fatto un deep dive su tante cose su cui normalmente non c'è un livello di approfondimento e di buon senso come ci sarebbe bisogno. Per esempio, i temi del rapporto tra diritto d'autore e intelligenza artificiale, ma anche la grande illusione degli NFT, diciamo il grande abbaglio, mi verrebbe da definirlo. È una lezione che nel giro di qualche ora Simone metterà online, quindi volevo solo utilizzare questo mezzo, questo strumento del podcast, per invitarvi a seguirla sui suoi canali, perché è davvero imperdibile. Io cercherò di metterla anche nella bibliografia di questo podcast, perché è stato uno dei momenti più belli di questo corso fino a questo momento. Stiamo avendo molti ospiti importanti. Abbiamo avuto Giorgio De Finis, che ci ha parlato dei musei ospitali, dei suoi progetti, sempre un po' meravigliosamente sovversivi. Poi abbiamo avuto un altro personaggio fuori dagli schemi, Bruno Pellegrini, che ci ha parlato di Loquis, del rapporto tra cultura, rete e luoghi fisici. Abbiamo avuto adesso Simone Aliprandi, avremo poi altri ospiti importanti, Simona Vargas, che ci parlerà dell'influencer marketing, di tutto quello che funziona e anche di quello che non funziona, con una serie di case study. Avremo Maria Elena Colombo e Nicolette Mandarano, che insieme credo che siano quanto di meglio si possa riunire come teste, come intelligenza, come brillantezza in materia di rapporto tra evoluzione delle istituzioni museali e strumenti digitali. Insomma, ci stiamo divertendo. Si diverte sicuramente anche Bruno Mastroianni, che prosegue il mio corso nelle giornate della domenica mattina. È una delle cose più belle che stanno succedendo nella mia vita in questo momento, questo corso, anche per la bravura, la brillantezza dei ragazzi che partecipano. Alcuni non sono ragazzi veri e propri, ci sono rappresentanti un po' di tutte le età, il che innesca anche un bellissimo dialogo generazionale, diciamo. E niente, appunto, seguite la lezione di Simone, che appena disponibile cercherò di pubblicare su questo canale.